Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Non si penserà certo che per un uomo di mondo come me fosse un piacere aspettare nelle anticamere o conversare con lacchè e parassiti. Ma non era più degradante delle camerate militari di cui, occorre dirlo, non ne potevo proprio più. Se dichiaravo a gran voce di apprezzare l'esercito, era solo per gettare fumo negli occhi del mio superiore. Sospiravo il momento in cui l'avrei fatta finita con quella schiavitù. Sapevo di essere nato per brillare nel gran mondo. Fossi stato nella guarnigione di Neisse, mi sarei aperto a colpi di spada la via della libertà, a fianco con il valoroso francese. Ma qui a Berlino potevo raggiungere il mio scopo solo con l'astuzia. E allora non era forse giusto che ne facessi uso? Il mio piano era questo. Posso cercare di rendermi tanto necessario a Monsieur de Potsdorf da far sì che lui ottenga la mia libertà. Una volta libero, con la mia bella persona e la mia buona famiglia, farò ciò che hanno già fatto 10.000 gentiluomini irlandesi prima di me. Sposerò una signora di alta condizione con un buon patrimonio. E la prova che ero, se non disinteressato, perlomeno spinto da una nobile ambizione, è questa. C'era in città la grassa vedova di un droghiere con 600 talleri di rendita. È un commercio ben avviato e mi diede a intendere che se l'avessi sposata avrebbe pagato per farmi congedare. Ma io le dissi francamente che non ero nato per fare il droghiere e così gettai al vento l'occasione di liberarmi che lei mi aveva offerto. Però ero davvero grato ai miei padroni, più di quanto loro non fossero grati a me. Il capitano si era indebitato e aveva a che fare con gli ebrei, dava loro delle cambiali pagabili alla morte di suo zio. Il vecchio Herr von Plotzdorf, vista la fiducia che il nipote riponeva in me, mi offrì un compenso per sapere come stessero davvero gli affari del giovinotto. Ma io che feci? Informai del fatto il capitano von Potsdorf e insieme architettammo una lista di piccoli debiti tanto modesti che il vecchio zio, invece di irritarsi, si tranquillizzò e li estinse, ben contento di cavarsela così a buon mercato. Mi toccò un bel contraccambio per tanta fedeltà. Una mattina il vecchio gentiluomo si era rinchiuso in camera con il nipote, veniva spesso a raccogliere le notizie correnti sui giovani ufficiali del reggimento. Al re, infatti, piaceva conoscere gli affari privati di ogni ufficiale del suo esercito. Venni mandato a consegnare una lettera al marchese d'Argent, quello che più tardi sposò Mademoiselle Coucois, l'attrice. Ma, fatto pochi passi, lo incontrai per strada, gli diedi la missiva e tornai all'alloggio del capitano. Lui e suo degno zio avevano fatto oggetto della loro conversazione la mia indegna persona. «È nobile!» diceva il capitano. «Bah!» rispose lo zio. «Tutti questi pezzenti irlandesi, quando si arruolano, raccontano la stessa storia. È stato rapito da Gelgenstein!» riprese l'altro. «È un disertore rapito!» disse il vecchio zio. «Comunque ho promesso al ragazzo che avrei chiesto il suo congedo e sono certo che lui potrà esservi utile». «L'hai chiesto il suo congedo?» rispose il vecchio ridendo. «Bon Dieu, sei un modello di probità. Non erediterai mai il mio posto, George, se non hai più cervello di quanto ne stai mostrando ora. Serviti di quel tipo finché ti pare. Ha un bel modo di trattare con la gente, un'aria schietta. Sa mentire con una sicurezza di cui non ho mai visto l'uguale. E in caso di necessità è pronto a battersi, quanto tu mi dici. Quel furfante non manca di buone qualità, ma è vanitoso, spendaccione e chiacchierone. Finché puoi tenere il reggimento sospeso sopra il suo capo in terrorem, puoi fare di lui quello che vuoi. Ma se lo lasci libero, quel ragazzo è tipo da piantarti in asso. Continua a promettere. Promettigli di farlo generale, se ti va. A me che diavolo me ne importa? In questa città di spie se ne trovano in abbondanza, anche senza di lui. Era dunque questa la considerazione di cui godevano, agli occhi di quel vecchio gentiluomo ingrato, i servizi da me resi a Monsieur Potsdorf? Mi allontanai di soppiatto dalla camera, molto turbato, al pensiero che un altro dei miei cari sogni si dissipava e che la speranza di uscire dall'esercito, rendendomi utile al capitano, era del tutto vana. Il mio capitano, scaltra canaglia, mi diede della conversazione con suo zio una versione ben diversa rispetto a quella che sapevo vera. Mi disse tutto contento: «Redmond, ho parlato al ministro dei tuoi servizi. La tua fortuna è fatta. Ti tireremo fuori dall'esercito, troveremo un incarico per te all'ufficio di polizia e ti procureremo un posto di ispettore doganale. Insomma, ti permetteremo di muoverti in una sfera più alta di quella in cui il destino ti ha relegato finora». Benché non credessi a una sola parola di questo discorso, finsi di essere molto commosso e, naturalmente, giurai al capitano eterna gratitudine per la sua generosità verso un povero esule irlandese. «Il tuo servizio presso l'ambasciatore d'Olanda mi ha pienamente soddisfatto. C'è un'altra circostanza in cui puoi esserci utile, e se hai successo, stai pur certo che avrai la tua ricompensa». «Di che servizio si tratta, signore?» dissi io. «Farò qualunque cosa per un padrone tanto premuroso». «È da poco arrivato a Berlino», disse il capitano, «un gentiluomo al servizio dell'imperatrice regina, che si fa chiamare Cavalier de Balibari e porta il nastro rosso e la stella del pontificio ordine dello Speron d'Oro. Parla italiano e francese, senza preferenze, ma noi abbiamo qualche motivo per credere che questo Monsieur de Balibari sia nativo del tuo paese, l'Irlanda. Hai mai sentito un nome come Balibari in Irlanda?» «Balibari, Balibari...» Un lampo improvviso mi attraversò la mente. «No, signore, mai sentito nominare». «Devi entrare al suo servizio. Naturalmente tu non saprai una parola d'inglese. Se il cavaliere ti fa delle domande sul tuo strano accento, di che sei ungherese. Il servo che lo accompagnava verrà mandato via oggi, e la persona a cui si è rivolto per trovare un domestico fedele ti raccomanderà. Sei ungherese. Hai prestato servizio nella guerra dei 7 anni e hai lasciato l'esercito per una debolezza di reni. Sei stato per 2 anni al servizio di Monsieur de Kellenberg e ora lui è con l'esercito in Slesia, ma eccoti il tuo certificato con la sua firma. Poi sei stato con il dottor Mopsius, che darà referenze se necessario. E poi c'è il locandiere della Stella, che naturalmente può dichiarare che tu sei un brav'uomo, ma la sua attestazione non vale nulla. Quanto al resto della storia, puoi fabbricartela come ti pare e farla romantica o ridicola, come ti detta la fantasia. Cerca però di guadagnarti la fiducia del cavaliere facendoti compatire. Lui gioca moltissimo e vince. Conosci bene le carte? Solo un pochino, come tutti i soldati. Ah, ti credevo più esperto. Devi scoprire se il cavaliere bara. Se bara, l'abbiamo in pugno. Incontra spessissimo gli ambasciatori d'Inghilterra e d'Austria, e i giovanotti di entrambe le ambasciate pranzano di frequente a casa sua. Scopri di che parlano e quanto denaro giocano, soprattutto se qualcuno di loro gioca sulla parola. Se hai modo di leggere le sue lettere private, fallo. Con quelle che arrivano per posta non ti scomodare, le guardiamo già noi. ma non lasciargli scrivere neanche un biglietto, senza scoprire a chi va e per mezzo di quale tramite o messaggero. Dorme con le chiavi del cofanetto dei documenti appese al collo con un nastro. 20 Federici, se riesci ad avere l'impronta della chiave. Naturalmente andrai da lui in borghese. È meglio che ti spazzoli via la cipria dei capelli e ti leghi solo con un nastro. I baffi devi raderteli, naturalmente. Con queste istruzioni e con una piccolissima mancia, il capitano mi lasciò. Quando rividi il capitano, il mio nuovo aspetto lo fece sorridere. Mi ero tagliato i baffi, non senza un sussulto di dolore, erano di un nero corvino e arricciati con eleganza. Mi ero tolto dai capelli quell'odioso grasso e la farina che avevo sempre detestato. Avevo indossato una modesta giacca di color grigio francese, calzoni alla zuava di raso nero, un panciotto di felpa marrone e un cappello senza coccarda. Sembravo umile e remissivo quanto può esserlo un servo privo d'impiego, e credo che neppure al mio reggimento, che allora era in rivista a Potsdam, mi avrebbero riconosciuto. Così conciato, andai all'albergo della Stella, dove alloggiava questo straniero. E il cuore mi batteva per l'ansia, perché qualcosa mi diceva che questo cavalier di Balibari altri non era che Berry di Belli Perry, fratello maggiore di mio padre, che aveva rinunciato ai suoi possedimenti per il suo ostinato attaccamento alla superstizione romana. Prima di entrare a presentarmi, andai nella rimessa a dare un'occhiata alla sua carrozza. Portava lo stemma dei Berry? Sì, ed eccolo là, banda rossa in campo d'argento, con 4 conchiglie in campo, l'antico emblema del mio casato. Era dipinto sopra uno scudo grande come il mio cappello, appeso su una elegantissima carrozza tutta dorata, sormontato da una coroncina e sorretto da 8 o 9 tra cupidi, cornucopie e cestini di fiori, secondo la bizzarra moda araldica di quei tempi. Doveva essere lui. Salendo le scale mi sentivo debolissimo. Stavo per presentarmi a mio zio nella veste di un servo. «Tu sei il giovanotto che Monsieur de Sibac mi ha raccomandato?» Mi inchinai e gli porsi la lettera di quel gentiluomo che mi era stata fornita dal mio capitano. Mentre lui la guardava, ebbi tutto il tempo di esaminarlo. Mio zio era un uomo sui 60 anni. Era vestito in modo superbo, con un completo di giacca e pantaloni alla zuava di velluto color albicocca e un panciotto di raso bianco ricamato in oro così come la giacca. Di traverso sul petto portava il nastro di porpora con l'ordine dello sperone e al centro brillava enorme la stella dell'ordine. Aveva anelli a tutte le dita, un paio di orologi nei taschini e un ricco diamante sul nastro nero che gli girava attorno al collo ed era fissato al sacchetto della parrucca. Le sue crespe e gale erano abbellite da una profusione di merletti ricchissimi. Portava calze di seta rosa fin sopra il ginocchio, legate con giarrettiere d'oro ed enormi fermagli di diamanti sulle scarpe col tacco rosso. Una spada montata in oro, con la guaina di pelle di pesce bianca e un cappello adorno di ricchi merletti e penne bianche stavano appoggiati sulla tavola accanto a lui e completavano l'abbigliamento di questo splendido gentiluomo. Era alto più o meno come me, cioè 6 piedi e mezzo pollice. Il suo aspetto fisico era stranamente simile al mio ed estremamente distinto. Però uno degli occhi era coperto da una benda nera. In faccia metteva un po' di belletto bianco e rosso, cosa per nulla insolita a quei tempi, e portava un paio di baffoni che gli ricadevano sulle labbra, nascondendo una bocca che, come osservai più tardi, aveva un'espressione decisamente fastidiosa. Quando si tagliava la barba, del resto, si vedeva che i denti superiori erano molto sporgenti e aveva sul volto un sorriso fisso, spettrale, per nulla piacevole. Io agii in modo molto imprudente. Quando vidi lo splendore del suo aspetto, la nobiltà dei suoi modi, sentii che mi era impossibile continuare a fingere con lui, e nel momento in cui disse: «Ah, sei ungherese, vedo!» non potei più trattenermi. «Signore», dissi, «sono un irlandese, e il mio nome è Redmond Barry di Belly Perry». Già mentre parlavo scoppiai in lacrime. Non saprei dire perché, ma non avevo visto nessuno del mio stesso sangue per 6 anni, e il mio cuore sentiva un gran bisogno di qualcuno dei miei. «Voi, che non siete mai usciti dal vostro paese, non potete sapere cosa sia il sentire, prigionieri in una terra straniera, una parola affettuosa. Molti non sapranno spiegarsi la violenta commozione che provai, come ho confessato, alla vista di mio zio. Non si sognò nemmeno per un minuto di dubitare delle mie parole. «Madre di Dio!» gridò. «È il figlio di mio fratello Harry!» E in fondo sono convinto che lui fosse commosso quanto me a imbattersi così all'improvviso in uno del suo stesso sangue, perché era anche lui esiliato da casa sua, e una voce amica, uno sguardo, gli riconducevano alla memoria la sua vecchia terra e i giorni lontani di quando era ragazzo. «Darei 5 anni di vita per rivederli», disse, dopo molte carezze affettuose. «Che cosa?» chiesi. «Ma come?» rispose. «I campi verdi, il fiume e la vecchia torre rotonda e la tomba di famiglia dei Belly Barry. È una vergogna, Redmond, che tuo padre si sia disfatto delle terre che per tanto tempo hanno portato il nostro nome». Poi cominciò a chiedermi di me e io gli raccontai la mia storia in dettaglio. Al sentirla, quel degno gentiluomo si fece molte risate, dicendo che ero un Barry dalla testa ai piedi. 2 o 3 volte mi interruppe nel mezzo del racconto per farmi mettere accanto a lui, schiena contro schiena, e confrontare la nostra altezza. Così vidi che eravamo alti uguali, e anche che mio zio aveva un ginocchio rigido che gli dava un'andatura inconfondibile. Oppure intercalava le mie avventure 100 esclamazioni di pietà, affetto e simpatia. Era tutto un «Santi benedetti! Madre del cielo! Maria Santissima!» E ne conclusi giustamente che era ancora devotamente attaccato all'antica fede cattolica della nostra famiglia. Con qualche difficoltà cominciai a spiegargli l'ultima parte della mia storia, cioè che ero stato messo al suo servizio per tenere d'occhio i suoi movimenti, di cui dovevo informare certe persone. Quando gli dissi, dopo molte esitazioni, di questo fatto, scoppiò in una risata e sembrò divertirsi alla follia dello scherzo. «Furfanti!» disse. «Credono di pescarmi. Guarda, Redmond, la mia unica vera cospirazione è un banco da gioco di faraone. Ma il re è tanto sospettoso che vede una spia in ogni persona che arriva alla sua misera capitale, nel cuore di questo suo grande deserto sabbioso. Oh, ragazzo mio, devo proprio mostrarti Parigi o Vienna». Gli dissi che non desideravo altro che di vedere qualunque città che non fosse Berlino e che sarei stato arcicontento di liberarmi di questo odioso servizio militare. In realtà pensavo, basandomi sulla sua splendida apparenza, i suoi ninnoli preziosi sparsi per la stanza, sulla carrozza dorata nella rimessa, che mio zio fosse un uomo dotato di grandi mezzi e che per riscattare la mia libertà avrebbe comprato 12, anzi, tutto un reggimento di sostituti. Ma sbagliavo nei calcoli sul suo conto, e la sua storia me lo fece presto capire. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.